Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800240024, aspetto le vostre chiamate per commentare questa domenica pomeriggio che ci ha illuso per qualche minuto. Buon pomeriggio Carlo Genta. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Carissimo, io mi ero illuso davvero che si potesse tornare ad avere un campionato. Tu? Sì, no, io più che altro tifavo per avere un campionato, anche se, diciamoci la verità, non è che in caso di pareggio alla sconfitta della Juventus a Cagliari non ci ho creduto neanche dopo il gol di Piniglia. Però se fosse stato pareggio, con le vittorie larghe e convincenti del Napoli e della Roma, insomma, avrebbe messo il respiratore a un campionato che però è... Io non so come si fa a considerare per la Juventus che debba andare avanti sempre con questo passo, insomma, 8 punti, sarebbero stati 5, 6, certo che sarebbe stato campionato riaperto, non è che correrà sempre così. Secondo te, Carlo, quante prime firme erano lì pronte a scrivere il pezzo sul campionato riaperto? Tutte, non vedono l'ora. Non vediamo l'ora, onestamente, magari di raccontare anche qualche bugia, perché alla fine non è una questione di punti, l'ho già detto tante volte anche in settimana, questa Juventus, non sto parlando in generale, ma di questa squadra, per perdere 8 punti dalle inseguitrici, che pure insomma, sta andando forte, dovrebbe implodere, cioè dovrebbe succedere qualcosa di impronosticabile, di imprevedibile, perché onestamente io questa squadra, per le caratteristiche che ha, che perde 8 punti o 10 punti dalle inseguitrici, io non ce la vedo proprio. Eppure Conti ha avuto sulla testa il pallone del 2-0 e fosse andato dentro magari avrebbe scritto, che ne so, una giornata diversa, una partita diversa, un campionato diverso. 800 24 00 24. Carlo, lo sai qual è il numero della domenica? Qual è? 10, prima pagina. 10? Ok. 10 come i minuti di paura che la Juventus si è presa per colpa di Maurizio Piniglia all'alba di una domenica che è sembrata più difficile del previsto. Cossu, la palla è morbida, Conti trova il pallone, Piniglia! In vantaggio il Cagliari con Maurizio Piniglia! 10 come i minuti trascorsi prima del pareggio di Llorente, 10 come la striscia di vittorie da cui veniva la Juventus e che non si è fermata a Cagliari, ma anche 4 come i minuti che sono serviti a Roma e Napoli per approfittare del sonno juventino e provare a rimettersi in scia. Parte Totti sulla barriera, poi l'anticipo nei confronti di Nainggolan e il gol in rovesciata di Florenzi, ha segnato Florenzi. Larga su Mertens, Mertens, palla sul destro, Mertens! Il destro a giro di Dries Mertens, Verona 0, Napoli 1. 4 come minuti in cui il campionato si è virtualmente riaperto, 4 minuti, poi tutto è tornato a posto. Lichtsteiner aspetta il movimento dentro l'area, il cross per Llorente che trova di testa il gol del pareggio. E allora gli altri numeri, 4 minuti, 4 gol, quelli rifilati dalla Juventus al Cagliari, 11 come le vittorie consecutive bianconere, 8 e ancora 10 come i punti di vantaggio che restano su Roma e Napoli. Insomma, tutto come prima. Poi c'è quello che ancora resta, ci sono le ondate giapponesi che partono dal Sassuolo per arrivare chissà dove e domani c'è il nuovo capitolo di casa Inter tra supereroi, obiettivi mancati, tradimenti e il disperato bisogno di Mazzarri di tornare ai 3 punti. E proprio questo volevo trasmettere ai nostri tifosi, domani dobbiamo svoltare con l'aiuto di tutti e bisogna fare una grande gara. Tutti convocati. Oh, poi parliamo del capitolo Inter dopo le 18, anzi se volete già prenotarvi per parlare dell'Inter avremo Pierluigi Pardo, Enrico Mentana, vi faremo sentire Toir che ha detto che non è Superman dopo le 18. 800 24 00 24. Intanto sta per iniziare a parlare carissimo Carlo Genta Benitez, quindi poi lo sentiremo. Ti faccio sentire Totti alla fine della partita con il Genoa, senti Totti. Loro stanno facendo un campionato a parte, sono i campioni in carica, perciò stanno dimostrando tutto il proprio valore, però dietro hanno una Roma forte, una Roma che non molla e fino alla fine gli daremo fino ad oggi. L'ultima cosa, forse il gol della giornata è la prodezza di Florenzi, ma gliel'hai insegnato tu quel numero? Se io dovessi fare un gol del genere penso che smetterei subito, non mi alzerei più la terra penso. Complimenti a Alessandro perché ha fatto veramente uno dei gol più belli della Serie A. Non so se l'hai visto, Carlo, rovesciata, certo, di quelle dei vecchi tempi. Io non so quanti anni, certo, compie la rovesciata, 100 anni, 110, meravigliosa. Sì, beh, l'abbiamo vista, cioè, è l'emblema della copertina del pacchetto delle figurine, no? Te la ricordi bene anche, sì, tu. Sì, sì, questa bellissima, poi, davvero. Questa poi... meravigliosa, questa meravigliosa, poi è ovvio che è un gesto tecnico e atletico straordinario. È ovvio anche che ci vuole un po' di fortuna, sì, perché una certa botta di quello sull'altro lì. Palo, sì, sì, sì, botta di culo, però vabbè. Può andare ovunque. Se non l'avete vista, state qui, nel senso che ci ascoltate, poi con calma a partire dalle 19 andate e ve la vedete, perché merita davvero la prima pagina, come secondo me, carissimo Carlo, meritano anche Roma e Napoli. Poi parleremo molto della Juventus, però Roma e Napoli stanno facendo un campionato meraviglioso. Proviamo a prendere Benitez da Sky. Devo dire, credo che tutti gli allenatori facciamo lo stesso, che guardiamo la nostra squadra, guardiamo i nostri giocatori. Ho visto poco di Jorginho perché per me era più importante guardare la mia squadra e vedere che cosa possiamo migliorare. Lo abbiamo fatto, Pandev si vede adesso vicino a lui, Pandev ha fatto un buon lavoro tutto il tempo. Credo che non abbiamo visto tanto di lui perché noi abbiamo stato forti, no? Nel mercato ho detto che Funiga, Mesto, Reina, Hamsik sarà il primo mercato che possiamo fare noi e dopo vediamo se possiamo fare un altro. Sì, perché oggi c'era Jorginho, tutti guardavano a Jorginho, questa mattina la notizia è che anche il Napoli è su Jorginho dopo la Fiorentina, magari la Roma. Allora, un plauso a Napoli e Roma, Carlo, che non mollano, eh. Io sto dando un'occhiata alla classifica, abbiamo detto Juventus 52, Roma 44, Napoli 42, se tu vai nel resto d'Europa con quei punti, se non sei in testa, quantomeno sei in piena corsa per lo scudetto. Sì, settimana si è parlato anche di questo, c'è un ascoltatore che ci ha innescati su un tema, cioè la Juventus sarebbe prima anche nel campionato inglese, in quello spagnolo, in quello francese, in quello tedesco, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere un altro argomento di discussione. Sì, comunque... ti do la classifica del campionato europeo, Juventus 52, Barcellona Atletico Madrid 50, e poi c'è il Paris Saint-Germain e il Manchester City a 47, magari ci arriva questa sera anche il Real Madrid, e pensa che la Juventus è quella che ha giocato meno partite insieme alle spagnole. Sì. Tu che dici? Io dico di no, io dico che è come il fantacalcio fare la classifica così. Ma è ovviamente come il fantacalcio, un mind game, no? Che può essere carino e non è indicativo, anche se secondo me il campionato italiano ad esempio è mediamente molto più difficile, molto superiore nel complesso rispetto al campionato spagnolo, che si riduce a tre squadre ed è già tanto che quest'anno siano tre. Però al di là di questo, tornando al Napoli e alla Roma, il Napoli aveva già superato la sua crisi esistenziale in questa stagione e aveva già ricominciato a correre. Per la Roma questo è il momento cruciale, no? Perché arriva dagli schiaffi di Torino, si è rinforzata sul mercato, in settimana ha discusso i premi scudetti, questa è stata una buona idea per trasmettere alla squadra l'idea che comunque non era finita qui. La partita di oggi era estremamente importante, l'ha vinta d'Imperio e quindi io credo che questo sia il momento in cui si costruisce la Roma, cioè si capisce dove la Roma può arrivare, non allo scudetto ma senz'altro alla competitività, e la corsa per il secondo e terzo posto sarà bella. Sì, sarà davvero appassionante. 800 24 00 24, carissimo Carlo, stai lì perché dopo il traffico andiamo a parlare, credo, proprio del Napoli. Traffico. Occhio a Marchisio. Marchisio trova il gol dalla distanza, Claudio Marchisio. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, ride a 32 denti, carissimo Carlo Genta, Rafa Benitez, davvero pieno, davvero soddisfatto. Abbiamo un grande inviato oggi da Verona, Carlo, è il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buon pomeriggio, sindaco. Sì, buon pomeriggio, per modo di dire, a voi. Non è andata benissimo, direi. No, vabbè, ma si sapeva. Mandorlini ieri aveva dichiarato che avrebbe fatto la firma per un pareggio. Si sa che Napoli dietro non sono fortissimi, ma davanti sono fortissimi e l'hanno dimostrato. Ce la racconta lei questa partita? Mi sembra risultato rotondo, strameritato, anche ma, se allora, diciamo, forse largo, è troppo, però il Napoli abbia avuto le tre occasioni da gol, ne ha avuto anche altre. Cioè, magari forse il 3-0 è troppo, però cioè, loro davanti sono micidiali, quindi ci sta. E forse il Verona, che è arrivato quinto a questa partita, era il match di cartello di oggi, lo diceva la classifica, non lo dico io. Verona che forse sta andando anche sopra le previsioni, sopra le speranze, però questo diceva la classifica. Carlo? Beh, Verona ha dei sognatori, questo qui. Sì. Cioè, ma non, ha, non ha messo, oltre, ha messo ma... un po' i piedi per terra, o no? Sindaco? No, no. Non ha messo i piedi per terra, sta ancora volando, dai, basta leggere la classifica. È la squadra rivelazione del campionato intero, meritatamente, perché gioca bene e perché prima si parlava di Gorghigno, ha giocatori di qualità che stiamo scoprendo. Poi con il secco in mano si fa la storia, il sindaco sa benissimo che se va dentro quel pallone di Toni, che ha avuto una grande chance, eravamo su 1-0 se non ricordo male, per la cronaca, magari vediamo un'altra partita. Siete stati anche un po' sfortunati, sindaco. Sindaco, siete stati un po' sfortunati. Ci sono state tante palle gol da una parte e anche dall'altra. Loro a finalizzarle sono stati più bravi, però... Comunque, in termini di numero di occasioni, il Napoli davanti è stato pericolosissimo, perché Rafael ha fatto una gran partita, cioè al di là del 3-0, Rafael, il nostro portiere, ha fatto una gran partita. Quindi non c'è da recriminare neanche sull'arbitraggio, su episodio, che era una partita difficilissima, pericolosissima, poteva anche vincerla, perché il Verona nella prima mezz'ora ha solo attaccato. Loro però davanti sono tremendi, hanno avuto... alcune occasioni a sfruttare da Dio. Vi faccio sentire le prime parole del dominatore di questo campionato, Antonio Conte. Oggi Juventus 11 vittorie consecutive, nessuna Juventus era mai corsa così veloce. Conte, Sky Sport. Sicuramente è stato raggiunto un traguardo parziale straordinario, perché il fatto che nell'intera storia calcistica della Juventus nessuna squadra, sapendo benissimo le squadre che sono state alla Juventus, abbia raggiunto 11 vittorie consecutive, fa veramente riempire d'orgoglio e soddisfazione. Ho ringraziato i ragazzi perché meritano un plauso, perché tante volte il calcio poi va talmente di fretta, va talmente veloce, che alla fine non riesci neanche a goderti degli step straordinari come, ripeto, quello che è avvenuto oggi, perché nell'intera storia della Juventus non c'è stata nessuna squadra che è riuscita a fare quello che abbiamo fatto noi. Il monito mio è adesso, cerchiamo di allungare quanto di più questa striscia positiva, proprio in virtù del fatto che ci sarà poi qualcuno che cercherà di superarci. Sindaco Tosi, secondo lei il Napoli che ha visto oggi ha qualche fish da giocarsi sul tavolo dello scudetto? Ma forse quello è un po' troppo, francamente, nel senso che è una bella squadra, una gran bella squadra, però mentre la Juve, io sono un tifoso dell'Hellas, per noi la Juve ma lasciamo perdere cosa è, insomma, abbiamo avuto sempre dei rapporti non pessimi di più con la Juve. Non ci tiri fuori la questione delle aiutini. Scrive un amico al 349-238-6666, carissimo Carlo, anche per te oggi niente spiritosaggine di Totti sugli aiutini. Ah no, ne ha presi tre settimana scorsa, sindaco. No, ma la Juve, allora, adesso non so, io guardo la storia passata, insomma, la Juve della storia passata, ma ripeto, no, a prescindere da quello, il limite del Napoli è che ha dal centrocampo in avanti è formidabile, dietro non è irresistibile, quindi forse quello lo rende un po' troppo, gli rende difficile giocarsi lo scudetto. Carissimo Carlo, sai cos'è la curiosità di questa domenica? È che domani il Verona rischia di essere superato dall'Inter in classifica se l'Inter batte il Chievo. Secondo te il sindaco lo fa un appello al Chievo perché aiuti il Verona, Carlo? Può fare un appello al Chievo, ma dovrebbe fare... Ma lui è tifoso dell'Hellas, l'ha sempre detto. Ma a Verona questo derby non è così sentito. Io credo che anche il sindaco Tosi guardi con un occhio di simpatia ai cugini sportivi, quindi più che altro bisognerebbe fare un appello all'Inter perché torni in vita. Cioè, l'Inter è una squadra dall'elettroencefalogramma piatto in questo momento, quindi più che al Chievo, all'Inter bisognerebbe fare questo appello. Più che altro volevo chiedere, visto che abbiamo inviato specialisti... Ma lo facciamo o no l'appello, sindaco? facciamolo, sì. Ma sono d'accordo che c'è a Verona la tifosa, la rivalità farà il sì. Chievo, mentre a Milano. Ma lei domani fa il tifo per il Chievo o no? Per salvare il quinto posto del Verona? Non potrò mai farlo in vita. Quindi non fa il tifo nemmeno per salvare il quinto posto dell'Hellas. Il tifo per il Chievo non potrò mai farlo in vita, però è vero che qua c'è una rivalità non cattiva, anche perché l'Hellas è la squadra storicamente della città. Il Chievo sarà sempre una squadra di un quartiere, ma non lo dico perché è così, cioè, l'Hellas ha decine di migliaia di tifosi, il Chievo non potrà mai essere. Non mi faccia capire, domani preferisce che vinca l'Inter piuttosto che il Chievo? Non tifo per nessuno, perché ripeto, non posso tifare Chievo per fede calcistica. Fa altro, va a mangiare. Però a me non, se il Chievo resta in Serie A insieme all'Hellas, a me va bene. Cioè, non, ripeto, certo. Faccio una rivalità che è diversa, non è così sentita come altrove. Carlo, scusa, ti ho interrotto. No, ma ha ragione. Poi anche, voglio dire, politicamente, tra virgolette, sindaco di una città con due squadre in Serie A. Voglio dire, mica paglia, come si dice a Milano. Quindi io capisco benissimo il ragionamento che fa sindaco Tosi, anche se, insomma, tutto sommato un pizzico di tifo per il Chievo potrebbe anche spenderlo, però sulla fede calcistica io non metto le mani. Piuttosto volevo approfittare di un inviato così speciale per chiedere, per completare il quadro della cronaca, sindaco, la situazione ordine pubblico invece intorno a Verona-Napoli com'è stata? Sì, com'è andata? Ma c'è stato un episodio in città, in centro fra l'altro, quindi quello è stato assolutamente lontano dallo stadio. Allo stadio, per quanto ho visto io che ci sono andato, non era successo niente di particolare. Credo non succederà niente di particolare. Ho visto la foto di questa scritta sul muro, Scabbia, Monnezza, sì, lasciamo stare, insomma. Cose che, insomma, nel calcio, se è quello il problema, insomma, l'importante è evitare la violenza. Sì, non ci fosse sarebbe meglio, sindaco, sì, possiamo anche dirlo. Sì, per carità, però ripeto, l'importante è che una partita accesa come Verona-Napoli non succedano episodi particolari. C'era uno schieramento imponente delle forze dell'ordine che ha lavorato perfettamente, quindi credo che si potrebbe stare tranquilli sotto l'aspetto più preoccupante, che è quello dell'eventuale violenza, insomma. Va bene, grazie sindaco. Grazie a voi. Sentiamo ancora Conte. Guardare il viso e poi scegliere la formazione o chi sostituire o meno. Questa, no. Ripeto, i ragazzi lo sanno che da parte mia c'è sempre grandissima coerenza, da parte mia c'è sempre grandissima voglia di vincere, ecco. Cerco di mettere la squadra nelle migliori condizioni, quindi poi tante volte sbaglio, altre volte ci azzecco. Ecco. Sì, oggi mi sembra che ad esempio nei primi minuti la difesa abbia avuto qualche problemino, soprattutto da quella parte lì, quella dove non c'era Barzagli. Carlo, prima di salutarti, pronostico secco sul Milan di questa sera, la prima di Onda, anche se parte dalla panchina. Secondo me Milan stasera vince. Stasera Milan vince a Sassuolo perché credo che sia il momento di ricominciare a correre. Credo che il Milan ricomincerà a correre, anche se verso dove non si sa, ma attingo più che altro al recente passato. Quanti tifosi giapponesi faranno notte per Sassuolo-Milan? C'è un po' di letteratura, su un po' di romanzo. Fin troppa, a cominciare da quella lettera scritta in caratteri nipponici da Honda, andrò al Milan. Vabbè, molto romanzo. Sì, che poi in realtà non c'era marketing. Scritto andrò al Milan, c'era scritto giocherò nella Serie A e con la maglia numero 10. Il Milan l'ha aggiunto Galliani. No, va bene. Che fa benissimo, però. Sì, fa molto ridere, è molto divertente. Però, molto marketing, molto di tutto questo, molta letteratura, però Honda è un eccellente giocatore. Settimana hai sentito Cosmi che è venuto a trovarci laggiù a Pitti, dove abbiamo trasmesso, e ha detto: attenzione, i giocatori giapponesi nel nostro campionato, Nakata era un super, è stato l'antesignano, però si trovano molto bene anche giocatori di seconda fascia, pure per il Giappone, come Nagatomo, lo sai bene. Cioè, del resto, per un campionato di seconda fascia, qual è il nostro oggi, vanno benissimo anche i giapponesi. Ciao Carlo! Ciao Giovanni, buonasera a tutti. A domani 14.05 800 24 00 24 Massimo da Modena. Buonasera, buon pomeriggio. Salve, buonasera. Guarda, io volevo intervenire. Prego. Perché ho sentito all'inizio della trasmissione in maniera molto fiammeggiante il vostro intervento, che diceva che il gol di Florenzi era un gol forse mai visto nella storia. Mai visto, no? Bellissimo, bellissimo, mai visto, non esageriamo. C'è chi scrive 349-238-6666, la rovesciata più bella di sempre è quella di Rooney nel febbraio di un paio di anni fa, meravigliosa anche sì. Quella, prego Massimo. Però le chiedo scusa, ritornando qui in Italia, io vi vorrei ricordare il gol fatto da un calciatore che giocava comunque, ha giocato anche su campi di pietra e anche del macinato delle olive, che si chiama Sanza, giù in Sicilia, poi è arrivato in nazionale e stava per vincere il mondiale, un certo Totò Schillaci, sì. Addirittura il presidente dell'allora, se non mi ricordo male, Verona, disse oggi è andato in gol un calciatore che non segnava dagli anni 20, una stupenda rovesciata. Schillaci, allora apriamo anche questo tema, questo dibattito, la rovesciata di Florenzi bellissima, però raccontateci la vostra rovesciata più bella di tutte, grazie Massimo. Tommaso da Arzachena, Tommaso. Sì, salve, niente, volevo intervenire per Prego. Dire sostanzialmente che con il campionato che sta facendo la Juve adesso, tuttora, a parte che aumenta tantissimo il rammarico per l'uscita dalla Champions, anticipata dalla Champions, e poi forse sono stati un po' motivati, ma anche forse esagerate le critiche da parte della stampa, insomma, perché è evidente che la Juve è uscita sì per aver commesso qualche errore, per aver avuto qualche demerito, ma anche per molta sfortuna, insomma. Sì, io in realtà però Tommaso, per carità, assolutamente, poi quando una squadra esce ovviamente le critiche possono anche essere esagerate, però la Juventus non ha perso il suo girone a Istanbul, in quel campo di fango, neve, pantano, dove non si doveva giocare. Ha perso pareggiando in casa col Galatasaray, ha perso perdendo a Copenaghen, una partita che la Juventus non può perdere. Lì la Juventus si è rovinata con le sue mani, e siccome era il secondo anno in consecutivo in cui si metteva in quelle condizioni, io credo che in realtà le critiche siano giustificate. Sta parlando Rudy Garcia, Sky. Ha costruito una grande anima, un grande carattere. Sì, era la risposta giusta, era anche la partita giusta per noi, abbiamo fatto un pressing importante durante il primo tempo, è successo questo grande gol di Florenzi. E dopo abbiamo visto anche un capitano che ha trovato di nuovo la grande forma. Ecco, ci sono molte cose che sono state apprezzate dal pubblico in questi 90 minuti. L'ha detto lei, il gol meraviglioso di Florenzi, il ritorno di Totti, l'inserimento facile di Nainggolan, che sembra nato dentro questa squadra. Qual è la cosa di queste tre che sceglie? Noi abbiamo scelto queste tre, lei quale sceglie di queste tre? No, io scelgo tutto, perché Berragia ha fatto una grande partita, ma ogni giocatore oggi ha fatto una bella partita. È vero che è anche più facile di entrare in questa squadra quando vediamo un Kevin Strootman a questo livello, quando si gioca con tutti gli altri, Miralem Pjanic al centrocampo. E io volevo vedere una squadra con un atteggiamento grande, abbiamo visto una personalità forte di ogni giocatore, e va bene, 44 è il record della Roma, dopo 19 partite dobbiamo continuare così, perché c'è ancora una partita in casa la prossima settimana e dobbiamo sfruttare questa cosa. Io del pomeriggio dell'Olimpico mi porto via la rovesciata di Florenzi, continuo a dirlo meravigliosa, scrive Luca, la rovesciata più bella è quella di Djorkaeff contro la Roma. Poi vi dico che c'è anche qualche problema di visibilità per Sassuolo Milan, torniamo subito. Licenziato, trasferito al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino Napoli. A Napoli? Tutti convocati. 800 24 0024. Intanto Sky ha cronometrato il contropiede del 3-0 della Roma. 5 tocchi in poco più di 14 secondi. Il quinto quello di Maicon, che praticamente ha percorso tutto il campo, perché partiva dalla linea della sua area piccola ed ha segnato a 2 metri di distanza dalla porta di Perin. Ha percorso praticamente tutto il campo in 14 secondi. La Roma è una squadra che gioca benissimo anche in verticale. Stefano da Livorno, 800 24 0024. Stefano, buon pomeriggio. Salve, buonasera. Prego. Dunque, volevo parlare della Juve, sottolineare il livello di forza mentale che ha raggiunto questa squadra, un livello che secondo me fa amplificare anche quelle che sono le forze della squadra molto più di quelli che sono i valori, e che non mi sembra di trovare riscontro nelle Juve che ho visto io negli ultimi 30 anni. Io credo che non sia solo questione mentale, anche se evidentemente dal punto di vista mentale la Juventus in questo momento è una squadra fortissima. Saluto Tony Damascelli, ciao Tony. Ciao a tutti. È una squadra fortissima, però se noi pensiamo che oggi ad esempio la partita l'ha risolta Marchisio, che è al primo gol stagionale, che è un panchinaro, credo che molto faccia la qualità di questa squadra. Ti faccio sentire Florenzi. Riesce un numero del genere? L'ho detto già a fine primo tempo, secondo me è stato molto istinto. Ho visto questa palla che poteva andare in porta solo così, e ci ho provato, è andata bene. A proposito di qualità, Florenzi, autore di una rovesciata magnifica. Tony, sulla Juve. Ma sulla Juve c'è poco da dire e molto da scrivere in questi casi, no? Dire che la storia, le 11 vittorie consecutive che non erano riuscite a Boniperti, a John Charles, a Sivori, a John Hansen, a Platini, a Zidane, a Baggio, tanto per citare i grandi, ed è riuscita a Lichtsteiner e a Llorente. Il calcio è fatto anche di questo, nonostante le nostre chiacchiere. Il calcio è fatto poi di fatti, di sostanza e di sogni per qualcuno. La Juventus ha vinto anche questa partita giocando non un grande football oggi, assolutamente. Sì, non è stata la miglior Juventus. No, è stato il miglior Cagliari. Ma proprio per questo dico che, l'ho detto in apertura, secondo me in tante prime firme, non so tu, avevano pronto il pezzo sul campionato riaperto, perché insieme al miglior Cagliari c'era anche una Juventus che non era la Juventus di queste ultime settimane. Il campionato non era chiuso, perché queste frasi su campionati chiusi, riaperti, eccetera, sono comodi per noi. Poi però bisogna giocare le partite, e mancano due partite alla fine del campionato, per cui la Juventus è matematicamente, anzi aritmeticamente, perché la geometria non conta, non fa parte. Campione. La squadra ha una serie di circostanze felici, ha dei giocatori che le hanno aggiunto un carattere, già l'aveva questo carattere, una personalità particolare, e quindi io ho incontrato di recente Michel Salgado, che è stato un grande della Real Madrid e un grande della nazionale spagnola, e lui mi ha detto testualmente, dice: vedrai che il mio amico Llorente vi sorprenderà, perché è il miglior centravanti spagnolo. Ora, questo lo diceva prescindendo da Diego Costa, che è di origine brasiliana, come tutti sappiamo. Il mio centravanti spagnolo aveva bisogno di un'esperienza fuori dal nostro paese, perché secondo me è migliore largamente di Torres, che invece ha avuto, dice Salgado, una grande illustrazione, un grande mercato e tutto il resto. Sì, certamente più pubblicizzato di quello arrivato alla Juventus a parametro zero. Ho letto in settimana su tanti giornali, se va via Pogba il tesoro viene reinvestito per mettere a fianco a Tevez un altro top player, un attaccante. C'erano anche i nomi, a partire ad esempio da Suarez. Io non so se la Juventus fa un buon affare intanto a cedere Pogba, ma queste sono logiche di mercato, ma anche a pensare che eventualmente un intervento vada fatto per mettere un altro top player insieme a Tevez in attacco. Ma guarda, innanzitutto il grande giocatore in attacco è Carlos Tevez, è ovviamente un buon giocatore, non è un grande giocatore, è un buon giocatore. Il grande giocatore è Carlos Tevez, che è capace di, anche quando sbaglia, comunque di essere sempre in partita, cioè di avere quella fame che è necessaria per una grande squadra, un po' come Wayne Rooney, per il Manchester United. È sempre opportuno avere un giocatore. Vedete la stessa Inter, che in fatica in questi periodi, appena ritrovato Milito, si è visto che Diego Milito, nonostante abbia vinto tutto, da buon argentino vero e non sporco, è andato in campo con una fame, con una rabbia, con una voglia di, e questo è quello che è importante per una grande squadra. La Juventus ha questo tipo di giocatore, però è un campionato abbastanza strano. Questo campionato mi ricorda moltissimo la Formula 1, ci sono tre scuderie, e il resto accende i motori e fa finta di partecipare. a partire dalla quarta, che è la Fiorentina, che oggi senza Pepito Rossi, senza Gomez, ha creato occasioni, ma ovviamente se non è quello che la butta dentro, esatto, poi fai fatica a vincerla a Torino, certo, 0-0. Intanto abbiamo aperto un referendum sulla rovesciata di Florenzi, bellissima. Ci scrivono degli amici: la rovesciata più bella è quella di Mexès in Champions, che è stata premiata anche come la migliore della scorsa stagione. Poi c'è chi ricorda Vialli a Cremona nel 94 su Twitter, a proposito, se volete seguirci, chiocciola tutti convocati. Giuseppe, potrei ricordare una rovesciata di Roberto Bonissegna al Foggia San Siro 1971, Inter Foggia. Giuseppe, bravo, giorno bravo, dello quindi, scudetto in rimonta sul Milan, avevo 10 anni, scrive Giuseppe. Io avevo qualche anno in più, però posso dire che Roberto Bonissegna fece quel gol, come ne ha fatti altri. La rovesciata, anche il Quagliarella ha fatto questi gol così. La rovesciata fa sempre parte, ecco, dello spettacolo, come si dice, che non è il 4-4-2, il 4-3-3. Lo spettacolo prevede il dribbling, il tunnel, prevede il colpo di testa, prevede la grande parata, prevede la rovesciata, la rabona, insomma, prevede il colpo d'arte. Il colpo di tacco, ne abbiamo parlato un mesetto fa. Poi c'è chi ricorda anche Cinesinho intorno agli anni 70. Sì, io non c'ero, non so se la ricordi tu. Grazie, sì, Tony. Sono tanti, dimmi. Sai, guarda, ti ripeto, la rovesciata è la cosa più bella. Carlo Parola che era un difensore, era diventato famoso per la sforbiciata e la rovesciata. Tant'è che una volta, parlando con lui parlava anche di cucina e disse che era bravissimo a fare la frittata, perché gli veniva bene il colpo della rovesciata, anche con la frittata. Anche con la frittata. Aveva anche questo ai dei tempi, quella, si poteva dialogare con gli allenatori. Sì, ed è quella rovesciata lì che poi tutti siamo cresciuti con la rovesciata di Parola stampata sulle figurine. Grazie, bravo. Tony. Grazie a voi, buon lavoro a te soprattutto. Ciao, grazie, buona serata. C'è Buffon ai microfoni di Sky, c'è Marco dalla provincia di Cuneo. Allora, sentiamo Buffon prima. L'intenzione di poterlo fare nel miglior modo possibile, e poi anche perché il mio più grande critico, che sarebbe mio padre, spesso e volentieri mi dice: mamma mia, non esci più, una volta uscivi sempre, ora quando ti vedo mi fai pena. E allora, per dargli coraggio, ho ricominciato a rimpossessarmi dell'area di rigore. Sì, Buffon autore oggi di una parata, anche questa credo decisiva, appena fatto l'1-1 la Juventus, Buffon ha tirato fuori un pallone di piede che sembrava indirizzato a quel punto dentro la porta della Juventus. Juventus che, al di là della vittoria larga, ha comunque sofferto. È stato un ottimo Cagliari, certamente, e certamente non è stata la migliore Juventus di questa stagione. Maurizio da Roma, no, Marco dalla provincia di Cuneo. Marco, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Buonasera. Senta, mi collego sia al discorso della rovesciata. Sì. Trovo che il campionato italiano stia arrivando un po' come quello spagnolo, con 2 o 3 squadre sopra le righe, completamente in fuga. E ieri sera, tra l'altro, abbiamo visto, almeno io ho visto, una parità a ritmi altissimi tra Atletico Madrid e Barcellona, dove quasi Arda Turan, per una mezza rovesciata, non riusciva a far gol e a battere l'Atletico. Sì, anche se credo che Arda Turan abbia sbagliato in realtà, sì, ieri. Avrebbe potuto probabilmente chiuderla meglio quell'azione. Un'intensità di gioco che... io non sono tifoso del Milan, ma sì, mi auguro un altro sport, un altro campionato, un altro livello. Noi non parliamo mai dell'Atletico Madrid, se io penso Marco che ieri praticamente in contemporanea c'era Bologna-Lazio, e io non so chi di voi si è dovuto sorbire Bologna-Lazio, e dall'altra parte c'era Atletico Madrid-Barcellona. Stiamo parlando di 2 sport diversi. Grazie Marco. 800 24 00 24, comunque di Atletico Barcellona parliamo subito dopo il traffico. Facile? Facilissimo. Semplice? Semplicissimo. Tutti convocati. È un traguardo al quale teniamo sicuramente molto di più rispetto a quelli personali, visto che fino a 2 o 3 domeniche fa c'era in ballo anche un mio possibile record. Ecco, questo sicuramente vale molto di più, perché è un record di squadra, è un qualcosa che magari, insomma, negli anni secondo me durerà. Ilaria? È il record delle 11 vittorie, nessuna Juventus prima le aveva fatte, 11 vittorie consecutive. Il record resta quello dell'Inter di Mancini, anno 2006-2007, 17 vittorie consecutive. Maurizio da Roma, Maurizio, buonasera. È caduto Alessandro da Ferrara. Buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo parlare solamente di questo. A livello dei rovesciati, io mi ricordo che facevo l'asilo, avevo 5 anni, sì, e vidi una rovesciata incredibile di Gigi Riva a Vicenza nel gennaio 70, e mi ricordo che il giorno dopo l'asilo ho provato a farla in cortile. Perché sì, non si è rialzato come Totti? No, no, cioè, si diciamo è rialzato. Che era, sì, era la prima volta che vedevo una rovesciata, avevo 5 anni, e me la ricordo perché secondo me è straordinaria. Quindi se l'andate a ripescare da qualche parte su YouTube è un gol incredibile. Ce ne sono tante da ripescare, sì, su YouTube, di rovesciate incredibili. C'è chi scrive, no, adesso l'ho persa, la ricerco. Maurizio da Roma, Maurizio, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Senta, io sono tifoso del Milan, volevo parlare del Milan. Volevo, a proposito di rovesciate, volevo ricordare, non so se l'hanno già ricordata, quella di Gigi Riva con la nazionale molti anni fa. Non l'hanno ricordata, Gigi Riva con la nazionale, sì. In quale campionato? E a proposito del Milan, io volevo chiedere a lei e altri giornalisti come si fa a definire un grande dirigente Galliani che da quando sono finiti i soldi di Berlusconi è andato nel pallone. L'ultima perla è stata che ha regalato a noi tifosi è stata quella di Matri, 12 milioni di euro che potevano essere investiti in altri settori, in altre parti del campo, invece sono stati spesi per Matri, che effettivamente ha reso per quello che ci immaginavamo poteva rendere. Quindi quando sento parlare, sì, forse è capace nel raccontare delle balle spaziali che continua a raccontare, oppure nella favoletta di Pedro, come Nainggolan non l'abbiamo preso e adesso Nainggolan non è più un grande giocatore. Paolo Condò, come si fa a ritenere Paolo? Ciao intanto, buonasera. Ciao a tutti, buongiorno. Come si fa a ritenere Galliani un grandissimo dirigente? Secondo me basta l'almanacco Panini, però. Beh, voglio dire, Galliani da quanti anni è? 25, 28, 30, 28, 28. 28, ecco, è chiaro che se tu lo giudichi magari su questa stagione, il suo ne ha prese poche, è vero. Però se vogliamo fare un giudizio di Galliani dobbiamo guardare l'intera sua carriera, ne ha prese tante invece. Guarda, secondo me il giudizio su Galliani è che intanto con i soldi c'è anche chi ha perso, e in tanti, perché non credo ci sia un'equazione, hai tanti soldi di budget, allora vinci, soprattutto vinci come ha fatto Galliani, e poi andatevi a leggere il bilancio del Milan, parte commerciale, quindi non parte dei ricavi sportivi, dove il Milan viaggia al doppio di tutti gli altri, a partire dalla Juventus col suo progetto, lo stadio di proprietà, proiettato nel futuro. Non fatemi fare l'avvocato però di Galliani, per carità. Paolo Condò. No, sai, ma il problema di Galliani è sempre stato che all'interno del club Milan, per i motivi che sappiamo, vige una legge, e cioè tutte le cose giuste le ha fatte Berlusconi, e gli errori, quando errori vengono fuori, sono stati fatti dagli altri. E quindi da questo punto di vista noi non possiamo sapere, ci sono, per esempio, l'ingaggio di Leonardo è stata una patata che ha girato fra Berlusconi e Galliani. A seconda dei risultati. A seconda dei risultati, finché a un certo punto è stato mandato via. Io mi ricordo, forse lo ricorderete tutti quanti, a proposito della cessione di Pirlo, io mi ricordo un video che venne girato fuori da una cabina elettorale, sì, fuori da un il milanese, nel quale c'è un signore che urla a Berlusconi non vendere Pirlo, il custa. lui lo chiama e con grande garbo e, sì, con la solita capacità di savoir-faire di Berlusconi, dice: ma lo sa quanti danè mi costa? Sì, le e allora quello, 54 miliardi, ecco, di lire, dice il passante, il tifoso, quello che era, dice: ah, allora capisco. Dopodiché adesso continuiamo a sentire ogni tanto che Berlusconi è arrabbiato perché avete venuto Pirlo. C'è il documento. Sì, c'è il documento video. Lui era assolutamente d'accordo su questo. Va bene, sei tra i fortunati, carissimo Paolo Condò, che ieri sera hanno potuto rinunciare a Bologna-Lazio. Sei un po' dispiaciuto. Cos'è stato Atletico Madrid-Barcellona? Guarda, è stata una partita di alto livello. È stata una di altissimo livello, fra due squadre molto forti. Barcellona lo sapevamo, dell'Atletico Madrid abbiamo avuto direi la tesi di laurea ieri sera, perché comunque ha fatto assolutamente match pari contro il Barcellona, e il Barcellona che non ha ancora Messi e Neymar nelle migliori condizioni, però comunque insomma è la terza partita che giocano quest'anno Atletico Barcellona del terzo pareggio. Sì, comunque ci vuole un certo coraggio a tenerli fuori tutti e due nella partita che vale il girone d'andata. Neymar, visto poi come ha giocato quei 20 minuti, andava tenuto in tribuna, perché aveva fatto una gastroenterite nelle ultime ore, e insomma non aveva neanche una gran voglia di giocare, ti devo dire, in quei 20 minuti. Messi non è certo al 100%, però ci sono bastato un po' di attenzione per creare gli unici pericoli. È stata una partita molto tattica, una partita a scacchi, priva forse di cose divertenti come sono le palle gol che fioccano, ma molto bella da vedere. E oltretutto sempre succede che in queste gare tu scopri qualche giocatore del quale conosci le qualità, però magari ti eri perso, come quando non vedi i figli di amici per un paio d'anni. Ti sei perso quanto sono cresciuti. Ecco, Arda Turan, il turco, ieri urlavo in tribuna stampa. Intanto ci siamo tolti il dubbio. Ci siamo tolti il dubbio che sul fatto che il Milan non ha pescato un avversario morbido, ammesso che questo dubbio qualcuno ce l'abbia avuto, qualcuno ce l'abbia Milanello. Se si giocasse mercoledì e non a metà febbraio, quante percentuali avrebbe il Milan di passare il turno contro l'Atletico che abbiamo visto? A me ha impressionato l'intensità, altro sport rispetto a tantissime partite, purtroppo la maggioranza che vediamo da noi. Guarda, i pronostici che sono stati fatti, o meglio le reazioni che sono state, che abbiamo sentito dopo il sorteggio, noi diciamo sì certo hanno esultato, sono degli scemi a esultare perché l'Atletico Madrid è fortissimo. Non c'è dubbio, il Milan secondo me ha il 25 possibilità su 100 di passare. Una possibilità sì, su quattro. In 3 su 4 passa l'Atletico. Però a parte il Manchester United, per il quale quest'anno ho moltissime perplessità, tu con tutte le altre squadre scendiamo sotto il 25. Quindi in questo senso il fatto che il Milan sia stato contento, è stato il meno peggio. Non è da dire, ripeto, scemi, siete stati contenti del sorteggio. No, è stato il secondo miglior sorteggio che poteva capitare al Milan, però non nascondiamoci che le possibilità non sono più di una su quattro. Il Milan deve, per passare, deve fare secondo me 0-0 in casa e 1-1 fuori. Sì, non c'è un'altra via. Questa è la combinazione che può dare la prima di salutarti, Paolo, classifica del Fantacalcio europeo: Juventus 52 punti, le due di cui parliamo 50, magari il Real Madrid sale a 47, tutte le altre al massimo 47 punti. Dibattito aperto: questa Juventus in Spagna dove sarebbe in classifica? Non è un dibattito al quale partecipo. No, questa Fantacalcio. Juventus è uscita in Champions League. E lì ti fermi. E lì mi fermo perché sono ancora indignato. Indignato è una parola grossa, naturalmente estremizzo. Però questa era una Juventus che aveva la possibilità, secondo me, di arrivare magari con un po' di fortuna poi negli accoppiamenti tra le prime quattro quest'anno in Champions League. Sì, poteva andare meglio perché dell'anno scorso. È una delle migliori versioni assolutamente della Juve. È una colpa ed è passata completamente in cavalleria. È passata in cavalleria. Conte il giorno dopo ha detto che dovevamo vincere la Champions. No, però magari passare il primo turno. Non dovevate vincerla, ma almeno ripetere quello dell'anno scorso. Sì, e secondo me un dibattito che sul perché questo sia successo sarebbe molto prezioso per la Juventus e non è stato assolutamente su perché si pareggia in casa col Galatasaray, esatto, si perde, esatto, in Danimarca perché lì poi è successo, perché ci sono dei motivi, cioè, te lo butto lì in una maniera ultra semplice. Conte prepara straordinariamente le partite contro le rivali italiane, sa in qualsiasi momento dove possono sbagliare e quando sbagliano le colpisce. Secondo me non esiste una stessa preparazione così adeguata per le squadre straniere. Cioè, probabilmente un suo processo di crescita che non è ancora completato. Se affronta la Roma, lui ha visto 20 partite della Roma. si affronta il Galatasaray, secondo me lui ha visto due partite del Galatasaray. E adesso ci scatenerai addosso i tifosi juventini. Grazie, no, Paolo Condò. No, te lo dico, conoscendo. Non è mica, voglio dire, è un discorso costruttivo fatto, sì, perché la Juve, secondo me, è tra prime quattro d'Europa. Ma se vogliamo, è anche il motivo per cui Conte, conviene anche a Conte fermarsi, ad esempio, visto che si parla dei rinnovi alla Juventus. Grazie Paolo Condò. Ciao a tutti. Grazie Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport. Stiamo per fermarci per il notiziario. Quando torniamo, telefoni aperti sull'Inter, vi leggo cosa scrive oggi Sconcerti sul Corriere della Sera, un retroscena virgolettato di Mazzarri: non è stato praticamente fatto mercato, ho perso quattro titolari, perché avrei dovuto avere in mano una squadra da 85 punti, non capisco le critiche e ancora mi sento tradito, scrive Sconcerti, perché Mazzarri gli ha detto: Moratti non mi ha mai detto che stava per vendere e che non c'erano soldi per fare mercato. Parliamo dell'Inter, 800 24 00 24. Diciamo che ha portato un'ondata di entusiasmo. Tutti convocati. 800 24 00 24. Apriamo l'ampia pagina sulla crisi dell'Inter, su questo grandissimo romanzo che si sta scrivendo tra, lo abbiamo detto, tradimenti, supereroi. Vi ho letto che cosa ha scritto Mario Sconcerti in retroscena oggi sul Corriere della Sera. Mi sento tradito da Moratti. Moratti non mi ha mai detto che stava per vendere, né che non c'erano soldi per fare mercato. E poi ha detto ancora Mazzarri. Poi sentiremo le parole in conferenza stampa oggi, perché l'Inter gioca domani sera ore 21 contro il Chievo. Spero che i tifosi ci ringrazino se arriviamo quinti. Io non lo so, carissimo Pierluigi Pardo. Ciao. Secondo te li ringraziano? Secondo me no. No. Perché no, poi i tifosi però ragionano in altro modo, eh? No, però voglio dire, adesso c'è modo e modo di andare avanti nella stagione, al di là del risultato finale, che ovviamente sarà una sintesi della qualità della stagione dell'Inter, però in questo momento la squadra è sesta, può tornare quinta domani. Io credo che ci sia, al di là di quello che sarà il risultato finale in classifica, da qui a giugno soprattutto i tifosi vorranno vedere dei segni di presenza da parte della società, di prospettive, di mercato. Sì, di ma non capisco cosa possa fare Mazzarri in tutto questo. Poi comunque parliamo, carissimo Pier, anche del mercato dell'Inter. Intanto saluto il collega Nicolò Schira, uomo mercato che mi regala sempre delle grandissime chicche, scrive per Panorama, per tanti siti. Lo sai Pier che cosa mi ha detto? L'amico Nicolò mi ha detto che il gol di Lichtsteiner e i due assist costeranno carissimi alla Juventus. Nicolò. E per il rinnovo, perché il fratello Marco, insomma, sta trattando l'allungamento con la Juventus fino al 2017, ma chiaramente questa grande prestazione, visto che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Beppe Marotta, farà sì che il terzino svizzero potrà strappare qualcosina in più nel rinnovo a livello dei monumenti. Scusami, il gol di Marchisio sotto gli occhi di Moyes, che era Cagliari, come era lo inquadriamo? Sicuramente aumenta l'interesse da parte degli inglesi, però è chiaro che la Juventus dovesse trattenere Pogba, ha rinnovato Vidal, rinnoverà Pirlo. Se dovesse arrivare un'offerta di 25-30 milioni per Marchisio, sì, si siederebbero al tavolo sicuramente. Ma chi te ne dà 25-30 milioni oggi per Marchisio dopo questa stagione qui? Dai, torniamo all'Inter, vi faccio sentire Mazzarri oggi sugli obiettivi della stagione. Ma i veri obiettivi, scusate, ma io insisto, perché voi giustamente fate il vostro mestiere, è cercare di spingere gli obiettivi detti da chi è. Chi l'ha mai detto obiettivi? Se si dice una ricostruzione e arrivare più in alto possibile e crescere in tutte le competizioni che ci hanno rimaste, la Coppa Italia. Ora, purtroppo siamo usciti ora, no? Però io vi ho detto anche che l'avete visto, ho fatto delle scelte che sapevo che potevano essere rischiose, ma erano necessarie per dare le ultime indicazioni alla società a gennaio. Ma io non lo so, carissimo Pier, come si fa a fare esperimenti in Coppa Italia se quella è l'unica, è l'unica cosa che tu puoi inseguire in una stagione? Non lo so, mi sembra ci sia un po' di confusione. No, mi sembra che Mazzarri sia in una fase di cortocircuito mediatico e dei risultati della squadra, nel senso che, ma per resto devo dire che raramente Mazzarri ha vissuto momenti di difficoltà nella sua carriera, nel senso che è un allenatore ipervincente, non dal punto di vista dei trofei, perché a parte la Coppa Italia adesso vado a memoria, non mi pare ne abbia alzati, però sappiamo bene che uno può fare molto bene, può considerare una stagione trionfale pur senza vincere il campionato. Lui ha fatto benissimo, la salvezza con la Reggina, le stagioni fantastiche con la Samp, Napoli. Forse c'è stato un momento a Napoli un paio d'anni fa di crisi, di difficoltà durata 6-7 partite, ma insomma momenti così sono rari della carriera di Mazzarri, e secondo me sta un po' faticando a gestirlo dal punto di vista mediatico. Ma va molto Mazzarri anche sulle indiscrezioni di prima, insomma probabilmente si aspettava cose diverse. Il mercato sicuramente è malato, e questo è il peccato originale dell'Inter di quest'anno, parlo del mercato estivo, perché se soltanto Inter e Campagnaro hanno trovato una certa regolarità di impiego, sì, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato, vuol dire che non si sono parlati, oppure che poi è successo qualcosa di imponderabile per cui questi giocatori presi con entusiasmo poi si sono rivelati non all'altezza. Certo. Però la seconda ipotesi è difficile. Ti faccio sentire il bilancio di Mazzarri, il bilancio della stagione fin qui. Ora, io ho fatto la Champions 10 anni, faccio calcio e ho fatto la Serie A per 10 anni, quindi un po' di esperienza ce l'ho di queste cose. Se poi uno va a parlare, parli, intanto vedete, si anticipano le cose. Vediamo i nostri dati. Noi i dati alla fine si è perso 3 partite. Ora è vero che siamo l'Inter, che l'Inter è abituata nell'era importante a non perdere mai, e io lo vedevo da dicevo, magari un giorno allenerò anch'io una squadra così, che posso anche perdere una partita all'anno, per dire, no? E poi sulla questione di Moratti, cioè l'ha avvisato o no? Carissimo Pierre, che avrebbe venduto e quindi si sarebbe trovato Mazzarri a guidare un Inter che non era più e non sarebbe più stata quella del passato. Mazzarri, certi concetti possono essere stati raccolti in generale, perché comunque è abbastanza vero quello che quando io sono arrivato all'Inter nessuno, io non ho pensato nemmeno a un cambio di società, mi chiamò il presidente, ma è un discorso generale che sappiamo tutti, che è abbastanza palese, l'ho detto in altre conferenze stampa, se voi vi ricordate all'inizio, non sapevo di questo passaggio, addirittura finché non c'è stato ufficialmente ho sempre cercato di non pensarci, di non pensarci io, di non farlo pensare ai giocatori, l'ho tenuto a riparo. Questo è chiaro che è un concetto espresso in questo modo, però non con polemica, anzi a me le cose tra virgolette, se possono essere considerate difficoltà, mi hanno sempre caricato. Io vado sempre a cercare situazioni particolari per avere grandi stimoli, e qui all'Inter ce ne ho tanti. La notizia, Pierre, è che Mazzarri non legge i giornali, perché secondo me a maggio già si scriveva che comunque c'era in corso una trattativa, che il futuro dell'Inter difficilmente sarebbe stato ancora Moratti. Sì, non so se lei che potrei anche pensare, visto il rapporto non sempre di lieve con i giornalisti, questa ovviamente è solo una battuta, che possano leggere i giornali, no, io credo che, non lo so, io penso che sia veramente ingeneroso dare molte colpe a Mazzarri, nel senso che qui mi sembra che la crisi dell'Inter sia una crisi tecnica profonda, poi sicuramente c'è la società che in questo momento è un po' scollata e un po' confusa, e poi la responsabilità secondo me c'è l'allenatore, insomma secondo me l'allenatore una squadra così la sta gestendo in maniera discreta, sicuramente l'abbiamo sottolineato, ormai mi annoia quasi ripeterlo perché dico sempre le stesse cose, però insomma sicuramente l'Inter ha vissuto dei passaggi a vuoto ultimamente abbastanza poco mazzarriani, soprattutto in quelle partite, penso a Inter Parma, penso a Napoli Inter, nelle quali ha concesso dei gol che non sono da Mazzarri. Poi nelle gare successive ha ritrovato un po' di compattezza difensiva, però si è inaridita davanti. Insomma, sicuramente nell'ultimo mese Mazzarri sta facendo male. Ha fatto 6 punti nelle ultime 6 partite, oltre all'eliminazione in Coppa Italia, e parliamo quindi del periodo da metà novembre in poi. Male, sicuramente. Male. Male, no, io nella classifica delle responsabilità metto prima la squadra, nel senso i limiti oggettivi della squadra. No, io metto poi prima la società, perché la squadra è una diretta conseguenza della società, dei conti, delle sue politiche. Secondo me è meno responsabile. Assolutamente. Nicolò, quante possibilità che gli cambi qualcosa nelle prossime 2 settimane? Potrebbe arrivare qualcosina davanti, però in prestito, questa è la decisione dell'Inter, non vuole spendere, anche perché giovedì scorso era andato a Londra Vigorelli per incontrare il Southampton per parlare di Osvaldo, l'Inter puntava al prestito oneroso, i Saints hanno detto vendiamo il giocatore ma vogliamo 15 milioni. Ma quando mai il prestito per uno che hanno appena strapagato? Tutti convocati. Out the door. just in time. Hit down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in a car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. Superman. I'm not a Superman. I cannot change everything in 60 days. We believe, we focus to what we want. Number one, we want to make Inter healthy. Number two, this team on transitions. Number three, we want to open a bigger market in international. Questa è una stagione di transizione, non bisogna dare illusioni. È d'accordo con quelle che sono state le parole del dopo gara di Walter Mazzarri? I agree with coach, and coach Mazzarri is the perfect coach for Inter right now. Well, I know what I've been told. Because the projects for the team, it takes 2-3 years to rebuild the teams. So this is the transition of the team that we want to have a better team next year. Le faccio fare l'arbitro per un attimo. Ha visto l'episodio di Milito in Udinese Inter. Lei quel rigore l'avrebbe dato? Well, I have to trust the expertise. I think the referee in Serie A is one of the best in the world. Meraviglioso Toir che dice che gli arbitri italiani sono i migliori in Europa. Saluto Enrico Mentana, direttore del TG di La 7. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Sono i migliori? Beh, insomma, diciamo che le punte negli altri campionati probabilmente sono migliori. Il livello medio forse non siamo peggiori degli altri. Diciamo che Toir ha già imparato a essere diplomatico. Toir è riuscito a dare un'interpretazione ancora più esotica del già di per sé esotico rigore quando l'arbitro fischia di Guido Bimbosco. No? Carissimo Pier, se Toir non è Superman, l'ha detto lui, io non sono Superman che posso cambiare tutto in 60 giorni, che supereroe è? Ammesso che sia un supereroe, quindi che abbia poteri speciali. Il momento non lo so, mi sembra che i superpoteri siano per il momento congelati, almeno fino a giugno. No, io volevo chiedere al direttore se stiamo diventando, parlo ovviamente di chi fa comunicazione, di quello che si dice in giro, ci siamo improvvisamente tutti dimenticati dei soldi messi sul piatto da Toir per coprire i debiti, cioè se c'è un eccesso di critica in questo momento, oppure se da tifoso dell'Inter questa critica è logica, perché non basta pagare i debiti, poi bisogna investire. Ma diciamo una cosa, che nel terzo millennio anche del calcio non esistono i ricchi scemi, no? Posto che siano mai esistiti. Comunque non è sicuramente un ricco scemo Toir, è un signore che è disposto a mettere tanti soldi e già ce ne ha messi tanti, ma l'Inter ha un problema di, come è noto, di fair play economico e di bilancio che deve saper onorare. E questo è un problema che c'è e per il quale la squadra è già nel mirino delle istituzioni calcistiche internazionali, europee. No? E questo è un primo aspetto. Poi, in secondo luogo, non esiste la bacchetta magica. Esistono i soldi e anche però la capacità di fare le campagne acquisti. E qualche errore viene fatto anche quando ci sono i soldi, perché non è vero che quest'estate diciamo si è speso poco. Ecco, diciamo che negli ultimi 3 anni l'Inter è riuscita a spendere davvero male, non spendendo poco. E se oggi siamo qui a dire magari non venda Guarin o venda Guarin, ecco, francamente in una squadra di alto livello Guarin non gioca, bisogna saperselo dire anche con chiarezza. Ma l'Inter oggi ha un top player, ha qualcuno che possa ricordare il passato? Ha un ex top player che è Milito. Ma non ha nient'altro di simile. Ha un, forse paradossalmente il top player dell'Inter era fino all'inizio di questa stagione Handanovic, penso che probabilmente era uno dei migliori portieri. Sì, si è un po' perso anche lui. Si è un po' perso anche lui. È vero che ci si perde, nel senso, in una stagione Bislacca ci si perde, ci si può perdere. Con una difesa che inizia da Saracinesca e prosegue da Colabrodo senza che cambino gli uomini, c'è qualcosa evidentemente che sì, non va. C'è un po' di fatica. O di preparazione, perché poi un Inter che è andata forte all'inizio e che adesso annasta, cioè un giocatore che si rivela letteralmente come nuovo, come Ricky Alvarez, e poi improvvisamente torna quello della scorsa stagione, forse era, e c'è un problema anche di una preparazione che non ha avuto il famoso richiamo durante le vacanze invernali. Forse si è potuta dare l'ultima vacanza a chi a giugno se ne andrà definitivamente. Sì, credo tutti, 8, 9, 10, quanti sono, credo che non resterà nessuno. Non so se con rimpianto o no da parte dei tifosi interisti, direttore. Ma i tifosi di una grande squadra non gliene frega niente, basta vincere. Hanno visto andar via Ronaldo, hanno visto andar via Vieri, hanno visto andar via grandi, cioè io l'ho detto forse proprio ai vostri microfoni, e sono stato spernacchiato, ma Ronaldo Nazario da Lima, intendo dire, il brasiliano, è il più grande fenomeno che abbia mai visto giocare, no? E l'Inter l'ha visto andar via, e poi l'ha visto addirittura dopo, i tifosi dell'Inter l'hanno visto con la maglia del Milan perfino, no? Effimera. Sì, si sopravvive a tutto, anche alla partenza di Chivu, Milito e degli altri. È nel cuore di tutti, Zanetti è nel cuore di tutti, ma un giocatore che si avvia ai 41 anni, l'abbiamo visto a Udine in una serata insomma particolare, però insomma fa piacere vedere Zanetti in campo, farebbe piacere vedere un difensore, un centrocampista arretrato che è in grado anche di sorvegliare l'uomo che gli è stato assegnato, cioè bisogna anche essere bisogna molto, capire molto quando è il momento di chiudere. Pier, tutti noi siamo attaccati ai nostri nonni, poi però sappiamo che il nonno un giorno non ci sarà più. E anche nel calcio è così. Stanley Matthews, che era la grande gloria del calcio inglese, che giocò fino a 53 anni, giocava in un calcio diverso, si sa, poi a una certa età se ne vanno via. Noi abbiamo già visto da qualche stagione Cambiasso, quando non è in forma, essere in balia degli avversari al centrocampo, no? Tutti vorrebbero per tutta la vita un Cambiasso al pieno della condizione, ma il problema è che ci vorrebbe un Cambiasso di 10 anni fa, uno Zanetti di 10 anni fa. Milito avrà l'ultimo canto del cigno, io spero veramente di vederlo in questa, nella prossima stagione ancora fare tanti gol. Poi non possiamo pensare di avere Milito fino a 90 anni perché è l'uomo del triplete. Ho l'impressione che abbia ancora 4-5 mesi, non di più, all'Inter, poi credo che... Ne siamo tutti abbastanza convinti. Milito è un giocatore che ci ha dato tanto e che anche non ha avuto fortuna, che è esploso tardi, no? Ecco, quindi è un discorso a parte, ma francamente siamo tutti... Io non rappresento i tifosi interisti, ma immagino che si sia tutti vaccinati all'idea di salutare Zanetti, di poterlo salutare perdere, di poter perdere di anche gli altri. Salutare Samuel e via dicendo. Pier. Io penso che in qualche modo l'ho riconosciuto anche Bonatti. Se c'è stato un errore dopo il triplete, è stato proprio forse per troppa gratitudine, forse per mancanza di coraggio, non aver cambiato in quel momento, aver prolungato tratti che forse non andavano prolungati, non essere riusciti a fare il sistema e far sì che questa vittoria diventasse veramente un volano economico per poter fare soldi e per rendere il Manchester ancora più importante nel mondo. Quello è stato l'inizio della fine, ma lo dico io, ha detto Bonatti in una famosa intervista sulla Gazzetta quest'estate, che poi è quella dalla quale di fatto ha fatto capire che avrebbe venduto. Quindi adesso il problema vero dell'Inter è proprio questo, cioè che non ha neanche la possibilità di fare un mercato creativo come quello che ha fatto per esempio la Roma quest'estate, prendendosi dei rischi, vendendo dei grandi giocatori come Marquinhos dietro, ma vendendolo molto bene, come Osvaldo davanti, e facendo delle scommesse. Oggi l'unico giocatore realmente che ha un valore di mercato oltre a Handanovic nell'Inter è Guarin, e il mercato, da quello che leggiamo, è realmente legato a questo discorso. Il giocatore dovrebbe partire perché è l'unico modo per poter far cassa e per poter provare a comprare i reparti più strategici in questo momento, per cui l'orizzonte è abbastanza grigio. Sì, l'orizzonte è assolutamente grigio. Direttore Reco Mentana, siccome siamo partiti dai supereroi, Mazzarri è l'uomo ragno perché comunque mette del suo, è Mandrake che è un mago, o secondo me è Paperinik, cioè il supereroe è un po' sfigato, l'ha detto anche lui, sono arrivato quando probabilmente mi aspettavo qualcosa di diverso, uno ha il pensiero di allenare l'Inter, la ritiene una medaglia nella sua carriera. Io non lo so, io so che le storie si raccontano quando sono finite o quando sono al culmine, ho visto persone pronte a raccontarmi che Leonardo sarebbe stato il grande allenatore dell'Inter, o Stramaccioni sarebbe stato il grande allenatore dell'Inter, no? Poi la storia la si racconta, finisce una stagione e le cose vanno diversamente. Quindi siamo molto attenti, nel bene o nel male, con Mazzarri. Non dimentichiamo che l'allenatore che ha preso il posto di Mazzarri e che porta in alto il Napoli è un signore che ha sostituito Mourinho all'Inter, che è Benitez. Rafa Benitez fu cacciato dopo aver vinto il Mondiale e dopo aver dovuto giocare con tutto il rispetto, in una partita, un Lazio-Inter, giocò con Alibek, insomma, con la squadra che era completamente scoppiata dopo le fatiche del triplete in cui l'infermeria... Sì, quella è una pagina non gloriosa del dopo triplete dell'Inter. Ecco, appunto, cioè voglio dire, si prese un allenatore che non era l'ultimo Pirla, no? se posso usare la fraseologia cara a Mourinho, no? E lo si mise in rottamazione dopo 4 mesi, peraltro il giorno dopo aver vinto il Mondiale di Clark, sì, no? Sì, la sera stessa. Ecco, insomma, c'è un cupio di soldi evidentemente, ed è anche psicologicamente comprensibile che quando tu hai vinto tutto e con El Hombre per definizione come era Mourinho, poi devi questa necessità. Sì, quindi i tifosi dell'Inter fanno bene a stare attenti prima di rottamare anche Mazzarri. No, ma Mazzarri come fai a rottamarlo? Cioè, se c'è qualcosa che si vede chiaramente è che Mazzarri almeno un'idea di fondo ce l'ha, non puoi metterlo in mezzo a una squadra in cui c'è metà dottor Gibault e metà Chicco, non mio omonimo, ma nel senso i prodotti per bambini, un po' sono troppo giovani, un po' sono troppo vecchi, e pretendere che poi il problema sia l'allenatore, no? A un Mazzarri devi dare tutto il periodo della ricostruzione, a meno che tu non prendi Cristiano Ronaldo e allora ti prendi anche Mourinho o un altro dei grandi allenatori. Sì, non so perché ho l'impressione che non sia questo l'orizzonte dell'Inter, esatto, magari sbaglio. Non è questo l'orizzonte. Noi abbiamo un uomo come Mazzarri che può piacere o non piacere caratterialmente, non è sicuramente non è Walter Chiari come simpatia, tutte queste cose diciamo c'è, però sicuramente è uno che dove è andato ha fatto un lavoro pluriennale in cui ha messo in assetto le squadre, le ha fatte giocare, le ha fatte anche crescere, le ha fatto ottenere dei risultati. Siccome a occhio e croce all'Inter ci vogliono almeno 3 anni per diventare una squadra competitiva in tutti i reparti, vediamo cosa sta continuando a investire la Juventus, no? È una squadra che appunto è capace di vincere 11 partite di fila in campionato, o guardiamo com'era l'Inter di Mancini, perché l'Inter ha giocato e vinto da sola negli anni dopo post Moggi, diciamo, ma poi per diventare una squadra compiutamente vincente a livello internazionale quanti anni ci ha messo? Sì, c'è stato anche lì un processo. Direttore, la salutiamo, grazie ad Enrico Mentana. Pier, mi sembra che Mentana sia perfettamente d'accordo con te sul sì. Podio delle responsabilità. Mazzarri terzo gradino. Ha fatto quel discorso su Leonardo e Stramaccioni, sono due storie diverse, perché Leonardo è andato meglio di Stramaccioni o meno peggio di Stramaccioni sicuramente, però erano due allenatori, non me ne vogliono, ancora che si dovevano fare. Ovviamente Leonardo farà proprio un altro mestiere della sua vita. Stramaccioni gli auguriamo di tornare forte, perché per carità, siamo il bene di tutti, però insomma Mazzarri ha una struttura diversa, Mazzarri ha una storia diversa, ed è un allenatore che dal punto di vista della tensione della squadra, della concentrazione, dell'adrenalina, ha veramente lì il suo marchio di fabbrica, il suo DNA è tutto lì, è soprattutto lì, per cui io credo che non ci sia, guarda, se vogliamo fare una frase da titolo, per me non c'è un allenatore migliore per dover tamponare la crisi. Sono d'accordo anch'io. Per dover gestire una squadra opaca non c'è un allenatore migliore di Mazzarri. Sono d'accordo anch'io, però Pier, proprio per questo trovo che aver sentito, e l'hai sentito, questo è un anno di transizione detto da Toir ieri 11 gennaio, sia un po' troppo tardi. Forse il male dell'Inter di questa fase di campionato viene da lì. Convocati 800 24 00 24 per dirci la vostra sulla crisi dell'Inter. Intanto, carissimo Pier, ha parlato ancora Tuir, intervista a Liputan 6, immagino sia un portale, un giornale indonesiano, non lo so, ha detto: Guarin è un ottimo giocatore, lo vogliono in tanti, noi lo vorremmo tenere, ma la situazione in Europa non è quella indonesiana, quando ci sono grandi offerte da grandi club non possiamo che tenerne conto, e soprattutto, senti qua, ha detto: non possiamo imporre ad un giocatore di restare quando il suo cuore non è tutto per il club. Insomma, fa capire che è Guarin che vuole andarsene. Nicolò, è così o no? Ma sicuramente, perché non si è capito nulla di questa situazione. L'agente di Guarin, Marcelo Ferreira, ha avuto più di un contatto con il Chelsea e aveva anche una proposta del Tottenham, dunque Guarin si è guardato intorno. Aveva anche una promessa dell'Inter, mi pare di capire, di un rinnovo, anche di un adeguamento di contratto a 3 milioni che poi non è arrivato. Sì, io non credo, Pier, che sia Guarin che vuole andarsene, anche se probabilmente fa benissimo se ha l'offerta del Chelsea. Ma io penso che non lo so, diciamo che la storia del calcio mondiale è fatta anche di questa sorta di guerra psicologica fra società e giocatori e agenti dei giocatori per scaricare le responsabilità. Io non lo so, insomma, poi che Guarin di fronte all'offerta del Chelsea possa avere in questo momento, con tutto il rispetto per l'Inter, la preferenza per il Chelsea ci sta. Insomma, non è uno nato con il poster di Rummenigge in camera. Il Chelsea è un grandissimo club, probabilmente se cambia va a guadagnare di più, cioè che è un club in questo momento più importante, in corsa per tutto, quindi un ragionamento di questo tipo stare, insomma, in assoluto. Però ecco, mi sembra che insomma, le società forti riescono a motivare i giocatori, gli fanno capire che se non vincono adesso vinceranno a breve, ma ripeto, il punto di partenza è quello, il punto di partenza è quello che si diceva prima col direttore, cioè Toir è arrivato, ha messo sul piatto 250 milioni credo per ripianare i debiti, adesso gli sta mancando la velocità e la brillantezza per investire, che non è un dettaglio ovviamente. No, assolutamente, scrive Giulio da Como: Toira partecipazione in America, in una squadra di calcio, in una di basket, sono due squadre senza tanti investimenti, l'Inter farà la stessa fine. Guarda, questa cosa qui l'avevamo detta fra le tante cose che avevamo detto, alcune erano anche ovviamente delle boiate, ma era una delle cose che erano uscite, no, nelle settimane quando ancora non si conosceva Toir. Una delle cose che era venuta fuori era che chiaramente, insomma, i Philadelphia 76ers non vincono dai tempi di Dr. J, quindi parliamo degli anni 80, insomma non sono una squadra esattamente vincente del campionato NBA, però ogni storia è diversa dall'altra, insomma. Sì, bisognava fare una due diligence iniziale, credo, da tutte e due le parti, lui l'ha fatta sui conti dell'Inter, magari poteva farla anche il mondo Inter, ammesso che esistesse un'alternativa. Chiede anche un amico cosa farà di Branca, Nicolò, chi farà il mercato a giugno? Branca al momento è a rischio, aveva avuto anche un contatto col Monaco nelle scorse settimane, però sembrava dovesse saltare già gennaio, alla fine è rimasto, il mercato lo sta facendo ora, le alternative sono un po' sfumate perché la pista Leonardo non è stata percorsa e Andrea Berta ha rinnovato con l'Atletico Madrid. Matri Kuzmanovic, io mi rifiuto di credere che Inter e Milan possono fare questo scambio. No, ci sono grossi problemi soprattutto dal punto di vista economico, non tanto per i prestiti semestrali da qui a giugno, ma per i diritti di riscatto, perché Matri comunque a bilancio pesa 11 milioni, Kuzmanovic fu pagato 1,7, gli ingaggi sono diversi, Matri prende più di 1 milione di euro rispetto al centrocampista ex Stoccarda, dunque non è così semplice economicamente da imbastire questo scambio. Quindi dove va Matri? Inter, Fiorentina, Everton, ho letto anche un altro paio di squadre inglesi. Sì, c'è stato anche un sondaggio del West Bromwich, sempre dall'Inghilterra, c'è la Sampdoria che aveva impostato uno scambio di prestiti col ritorno di Petagna in rossonero, però il giocatore aveva un attimo nicchiato di fronte a questa proposta. Allora, 800 24 00 24, Pier, sentiamo un po' di amici da casa. Stefano da Milano. Stefano. Sì, ciao. No, ti sentiamo malissimo, proviamo a ricontattarti. Davide da Rimini, Davide. Buonasera, guardi. Buonasera. Io chiamavo innanzitutto per le rovesciate. Sì. E metterei una di Buoniperti, bellissima, che ho visto in archivio, in cui praticamente controlla dal limite dell'area, poi la va a prendere altissima. Quindi Buoniperti. Sì, e poi una di Rummenigge, mi ricordo all'Inter, che era pazzesca per potenza e coordinazione. Sì, gliene cito un paio, una annullata con i Rangers di Glasgow e una in un Inter Torino, se non sbaglio. Sì, prego, però, poi, Davide. Sì, e poi mi ricordo quella dell'anno scorso del Bologna a Napoli, del Conè. Giocatore. Esattamente, che anche quello. Guardi, che siamo preparatissimi, noi un mese fa, Pier, abbiamo studiato i colpi di tacco, oggi studiamo le rovesciate. Guarda, vedo, come interessa, vedo, la gente. Però le devo fare un appunto: prima due volte ha detto che la Juve ha perso in Danimarca, ha pareggiato, così tanto per la cronaca. Non l'ho sentita, Davide. Ho detto due volte, prima sì. Lei ha detto ha perso in Danimarca la Juve in Champions. Sì, ha pareggiato. Ha pareggiato. Sì, ma ha perso, intendo, ha perso chiaro. Buona parte della qualificazione in questo girone. I punti più pesanti li ha persi in casa Assolutamente. Ma secondo me la cosa grave, Davide, lo abbiamo detto, Pierre, è che in realtà la Juve si era già messa anche l'anno scorso in questa situazione e ci è ricaduta, perché poi di fatto semplicemente è mancato l'ultimo passo che l'anno scorso le era riuscito. Pierre? Sì, sì, no, assolutamente. C'è stata una compressione di eventi negativi che ha portato la Juve ad uscire, insomma. Sì, il pantano di Istanbul è solo l'ultima. La Juve è più forte del Copenaghen e certamente per me è anche più forte del Galatasaray, però se l'è giocata male, ha avuto anche sfortuna secondo me nell'ultima partita di trovarsi un terreno che non l'ha aiutata e una serie di concatenazioni astrali sfavorevoli, di congiunture astrali favorevoli hanno fatto sì che sia stata eliminata. Certo. Stefano, sulle sei partite se fai un paio di errori finisci per inguaiarti ed è quello che è successo quest'anno alla Juve in Champions. Certo. Stefano da Milano, Stefano. Sì, ciao, io volevo parlare appunto un po' dell'Inter. Prego. Dicendo che secondo me gran parte dei problemi dell'Inter sono sul fatto che Zanetti, Cambiasso e tutta quella serie di insomma quasi quarantenni sono rimasti in squadra e la fanno abbastanza da padroni, impedendo alla fine all'allenatore di fare quello che deve fare, cioè allenare bene e mettere in piedi la squadra così come dovrebbe fare, no? Cioè, si è visto anche con l'Udinese in Coppa Italia, alla fine la responsabilità di Zanetti che insomma sul gol è stato determinante. Non è la prima volta che si presenta questo tipo di situazioni, secondo me. Sì, cioè, Zanetti è arrivato a fine corsa, poi ci vuole rispetto per quello che è stato, però infatti, probabilmente ci vuole anche una scelta. Grazie Stefano. Giorgio da Milano. Giorgio. Sì, buongiorno. Prego. Volevo dire due cose su da tifoso interista, su Mazzarri. La prima, come avete detto voi, mi chiedo dove ha vissuto in questi ultimi mesi, dato che si sapeva benissimo che Moratti stava per vendere l'Inter. Serve non risultava. Sì, sì, questo dubbio viene anche a me, Pier, perché ripeto, a maggio già si scriveva. Prego però, Giorgio. E la seconda cosa, sono rimasto un po' sconcertato da queste dichiarazioni che ha fatto oggi Mazzarri. Io da tifoso interista, cioè se a lui non piace rimanere all'Inter, non ha nient'altro da fare che rassegnare le dimissioni e andare via. Sì, lei non lo applaude se arriva a quinto. Pier, effettivamente io non lo capisco dal punto di vista mediatico, Mazzarri in queste giornate. Cioè, lui ha ragione da vendere quando nelle scorse settimane ha detto ci vuole chiarezza, qualcuno dica che questo è un anno di transizione e va bene. Però, ad esempio, cercare di spiegare la sconfitta di Udine così come ha fatto, dicendo che doveva fare esperimenti per dare risposte alla società, a me sembra un autogol. Ma dal punto di vista mediatico Mazzarri può migliorare, da anni, non da adesso, può migliorare anche molto sinceramente, alcune delle cose che lui dice io così lui non le direi, però ognuno ha il suo stile e al suo approccio. Dal punto di vista tecnico è un bravissimo allenatore che si sta trovando adesso un po' in un guaio. Andiamo avanti col mercato. Oggi c'era David Moyes a Cagliari, abbiamo detto, Pier. Forse non solo per Marchisio, c'è chi dice anche che Astori interessi al Manchester, Nicolò. Piace molto Astori, piace fra l'altro a tutte e due le squadre di Manchester, perché il City ha mandato un osservatore in occasione della gara della Befana con il Chievo a seguire Astori, oggi si è mosso addirittura Moyes in persona per seguirlo per lo United. Arrivassero 12 milioni, Cellino farebbe un'altra grande plusvalenza dopo quella in Golan. Sì, Cellino lo porta via, credo portandoselo direttamente in macchina in Inghilterra. Pier, tu stai andando a Reggio Emilia. Io sto cercando di passare una serie di controlli qui infiniti e sono praticamente allo stadio di Reggio dove raccontaci della nebbia, raccontaci della nebbia perché ci scrivono visibilità zero o quasi. Guarda, io so, per me la nebbia è uno di quei misteri, essendo io romano. Ma ci vedi o no? Ecco, saluto per molto. Aspetta che non ti sentiamo, Pier. Proviamo, allora, facciamo così, traffico, poi proviamo a riagganciarti. Tutti convocati. Adesso vediamo di riagganciare Pier che è a Reggio Emilia anche per capire se c'è o no questa maledetta nebbia. I tifosi interisti hanno bene in mente quale sarebbe stata l'alternativa a Tohir, quale futuro avrebbe avuto l'Inter. Io credo di sì, però credo, ripeto, che sia mancata un po' di chiarezza all'inizio. Proviamo invece noi a fare un po' di chiarezza sul mercato. Nicolò Schira, dove va Borriello, che è un altro dei nomi caldissimi di queste settimane, di questi giorni? Borriello ha due proposte, West Ham in Inghilterra, a Sampdoria in Italia, ma il problema è sempre l'ingaggio, percepisce 4 milioni e 200 mila euro per 6 mesi, sono più di 2 milioni, troppi. Poi ci chiedono del Napoli, se davvero si è riaperta questa trattativa con Alon o se invece alla fine Bigon dovrà ripiegare su altri nomi. Io aggiungo, ne prende uno o due? Uno sicuramente, ma ne stanno pensando eventualmente ci fosse la possibilità di prendere anche due, perché Berami starà fuori due mesi, un'assenza pesante. Gonalon sicuramente, Napoli farà un nuovo tentativo, piace Alex Song che ha trovato poco spazio a Barcellona, ma occhio anche a Jorginho, che è una pista calda nelle ultime ore, a metà settimana arriva il suo agente dal Brasile, dunque potrebbe esserci un'impennata. Sì, Mandorini ha detto che spera di tenerlo fino a fine stagione, credo abbia non più del 50% di possibilità. Pier, c'è o no la nebbia? Poi ti salutiamo. No, è caduto ancora, evidentemente io non so se c'è la nebbia a Reggio Emilia, come scriveva un amico al 349-238-6666, di sicuro non c'è campo per il telefonino di Pierluigi Pardo. Antonio da Napoli, buonasera. Antonio, no, non c'è ancora, quindi potrebbe essere Song il nome su cui sta lavorando il Napoli anche in questo Jorginho momento, però o anche ha preso Jorginho. Diverso spazio ultimamente. Sì, Jorginho che, ripeto, oggi Mandolini ha detto spero termini la stagione nel Verona. Fiorentina, vi facciamo sentire Montella oggi dopo il pareggio di Torino sulla questione attaccante per sostituire Pepito Rossi. Montella. Ma sicuramente è evidente che siamo stati sfortunati come squadra e come società, ancora di più Giuseppe e Mario sono ancora più sfortunati di noi, perché sono loro ad essere infortunati. Naturalmente non è facile inserire qualche giocatore in squadra di questo livello, direi quasi impossibile, perché sul mercato non ci sono e che chi ce l'ha si ritiene, e quindi è difficile. Mi auguro che si riesca a trovare giocatori adatto per il nostro gioco, qualcosa sembra che ci sia, e sono certo che la società farà il possibile, perché è anche un'esigenza della società più che mia. Visto oggi quanto è difficile per la Fiorentina senza un attaccante, allora Matri, Gomez, Quagliarella, Gomez intendo, il Papu Gomez, uno o due? Intanto uno sicuramente, perché puntano sul ritorno di Gomez. Il problema è che la Fiorentina vorrebbe fare questa operazione in prestito, perché l'esborso lo farà in altri ruoli. A centrocampo domani potrebbe arrivare la chiusura dell'operazione Anderson dal Manchester United, prestito oneroso 500.000 euro, diritto di riscatto a 5 milioni, dunque un affare importante per un centrocampista che comunque ha 300 presenze con la maglia dello United. E poi c'è qualcosa anni. Che arriva anche in difesa, mi pare di aver capito, per la Fiorentina c'è un interesse forte per un gioiello del Villarreal, Musacchio. Sappiamo gli ottimi rapporti con il club iberico da dove sono arrivati Borca Valero, Pepito Rossi, Gonzalo Rodriguez. La Fiorentina punta nuovamente sulla gioielleria del Villarreal. Pier, c'è la nebbia o no? Guarda, ripeto, la nebbia c'è, nel senso che c'è, però da qui a dire, io sono molto scarso sulla nebbia, nel senso che no, ma è facile, Pier, cioè devi guardare fuori dalla macchina, se vedi il cofano già ci siamo, insomma. Sì, vedo anche tre macchine avanti. Detto questo, poi è uno dei fenomeni più vari, no? Più no, sì. Sono io questo rapporto, cioè, no, i banchi, no, improvvisi, i banchi, no, di nebbia fanno di scuola. C'è un po' di foschia da qui a dire, cioè io in questo momento vedo, avrò 150 metri di visibilità. Secondo me l'amico da casa non ha voglia stasera di andare a vedere la partita, altro da fare, e allora si è inventato che non giocavano per la nebbia. Poi ecco, adesso sto entrando allo stadio, insomma, dentro c'è un po' di foschia c'è. Va bene, Pier, buona partita. Grazie, se si gioca. Poi vi farò sapere. Tu domani stasera mi studio la nebbia, come sarà un fenomeno e giuro che domani con Genta alle 14 ne parliamo. 14:05 domani, tutti convocati con Pier Luigi Pardo e Carlo Genta. C'è chi scrive ancora della rovesciata di Schillaci. A proposito di mercato, abbiamo ancora un paio di minuti. Nicolò, Juventus, Andrea Pirlo. Allora a febbraio arriva la conferma del rinnovo. Sì, fino al 2016 un biennale alle stesse cifre, dunque alla fine ha vinto la linea Pirlo e la linea del suo agente Tullio Tinti. Pogba dove sarà a settembre 2014? Qua la vedo più dura che possa restare a Torino. Andiamo le percentuali. Al momento 50-50 per il fatto che Pogba si trova molto bene alla Juve, dunque non vorrebbe cambiare. Vero è che il PSG sta facendo un'offerta e un corteggiamento sfrenato. Ma tu hai capito quando è che Raiola si vede con Marotta? Perché su questo appuntamento che prima della a fine del mese l'intenzione della Juventus probabilmente già questa settimana, però c'è anche da dire che Raio in questo momento ha anche altri giocatori che deve sistemare, quindi non è una priorità Pogba il rinnovo. Ho l'impressione che non abbia tutta questa fretta Mino Raiola. Antonio da Napoli, Antonio, buonasera. Eccoci. Prego. rapidamente, io ho ascoltato. Però purtroppo non la sentiamo, Antonio. Se lo agganciamo bene, altrimenti siamo in chiusura. Sempre sulla Juventus, Nicolò, l'esterno arriva o no a gennaio? No, la priorità di Conte lo vogliono fare, però chiaramente l'uscita dalla Champions ha ridotto la forza economica che ha la Juventus, dunque è difficile arrivare a Nani, che era un po' il grande sogno. Ci sono opzioni più low cost come quella di Biabiani, che però non convince in pieno. Quale sarà il colpo di questa settimana? Se ci sarà un colpo, se c'è qualcosa su cui si sta lavorando che comincia ad arrivare vicino alla conclusione. Penso sicuramente il colpo lo farà la Fiorentina, abbiamo parlato prima, Anderson potrebbe essere a breve il nuovo acquisto dei Viola, e aspettiamoci qualcosa insomma dal Napoli, perché comunque Benitez sia un centrocampista ma anche qualcosa dietro necessita, e dunque assolutamente, sì, perché poi non si parla più del difensore centrale del Napoli, però è una priorità e rimane tale assolutamente. Occhio a Nkoulou del Marsiglia, il nome fa un po' ridere, però è un giocatore che piace assolutamente. Grazie a Nicolò Schira, grazie anche a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, grazie a Valeria Bernardi e Roberto Scaltritti che si sono alternati in regia. Vi lasciamo con l'intervista a Davide Cassani, neo CT della Nazionale di Ciclismo Italiana, realizzata da Dario Ceccarelli, quindi una chiacchierata sul futuro della nostra Nazionale del Ciclismo. Tutti convocati torna domani a partire dalle 14, domenica prossima ci risentiamo invece alle 17. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Senti Davide, intanto si può dire che si realizza un sogno, in fondo è sempre stato tra i tuoi propositi quello di arrivare alla Nazionale. È un sogno che continua, perché da bambino il mio sogno era quello di diventare un corridore, di partecipare ad un Giro d'Italia, ad un campionato del mondo, e adesso l'onore di guidare la Nazionale, quindi sì, è veramente un sogno che si avvera. Tu sei stato un allievo della grande scuola di Martini, eri il suo regista in corsa, eccetera. Ti senti un po', come dire, un testimone di una tradizione che ha fatto la scuola del ciclismo? Tra i pochi maestri che ho avuto, uno è stato sicuramente Alfredo Martini, e mi sento onorato di aver indossato per 9 volte la maglia azzurra. Ero il suo uomo di fiducia, soprattutto negli ultimi mondiali. E posso dire che sì, adesso sto portando avanti, cercherò con la difficoltà di portare avanti il messaggio che per tanti anni ha portato Alfredo Martini. È un bel onere, perché sicuramente arrivare ad Alfredo sia molto molto difficile. Qual era il suo segreto magico per arrivare a tutti quei risultati? Capire l'uomo, cercare di far dare il massimo al corridore. Io quando ho partecipato ad un mondiale non ho mai pensato al mio successo personale, ma sono riuscito a capire da Alfredo quel che voleva da me, e quindi il concetto di squadra, il concetto di parlarsi, il concetto di stare uniti per cercare di ottenere un risultato vincente. Quella è la vittoria, non doveva essere personale ma della squadra. Penso che uno dei successi, uno dei pregi di Alfredo sia stato proprio questo, di creare delle squadre che avevano un'anima, no? Che avevano un fine comune, che era quello di vincere. Senti, per 17 anni, 18, hai fatto il commentatore televisivo. Ecco, questo ti ha dato un qualcosa in più, in meno? Come ti senti a fare questo passaggio? Parlando con i direttori sportivi qualche giorno fa mi hanno detto: beh sai, anche noi poi, anche in ammiraglia, se non avessimo la televisione sarebbe un problema. Beh, io la televisione l'ho fatta per 18 anni e quindi comunque non sono rimasto fuori dall'ambiente, ho cercato sempre di avere un filo diretto con i direttori sportivi, con i corridori, e tra l'altro non essendo di nessuna squadra cercavo di essere obiettivo, e quindi non penso di aver perso qualcosa in questi 18 anni. E credo che comunque l'esperienza che mi sono fatto prima da corridore e poi da commentatore possa essere utile in questa nuova esperienza. Il ciclismo rispetto agli anni in cui tu correvi e poi gli anni di Martini è cambiato parecchio, sia in Italia che nel mondo, e in più ha anche avuto grossi problemi. Per l'Italia, visto che non vinciamo dal 2008, da dove pensi che bisogna ricominciare? Dando fiducia ai giovani senza buttare via i vecchi, perché l'esperienza è fondamentale. Ci sono dei corridori non vecchi ma esperti che possono essere comunque utili alla causa, perché possono insegnare qualcosa ai più giovani, ma nello stesso tempo abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di crescere Basta guardare Nibali, qualcuno qualche anno fa pensava che fosse un'eterna promessa e adesso è diventato uno dei più forti corridori al mondo. Noi di giovani ne abbiamo, ragazzi che sono bravi, che sono forti, che possono vincere, ma soprattutto hanno bisogno di crescere. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è di far crescere nel modo migliore questi giovani, e ce ne sono tanti. Anche se rispetto ai miei tempi, nazioni che prima non esistevano, adesso sono forti e vincono.